ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buon sabato, benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend che si apre come di consueto con la nostra copertina che oggi è dedicata a una bellissima notizia. La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII è libera dal Covid-19. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area Critica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati. Professore, dopo 4 mesi nessun malato di Covid in quella che è la terapia intensiva più grande d'Europa. Finalmente, insomma, è arrivato questo giorno che tutti voi che avete affrontato in prima linea d'emergenza attendevate, ma che attendeva l'Italia intera. Partiamo da qui, professore. Ma sì, guardi, attendeva forse il mondo, perché devo dire che in questi giorni il mondo ha voluto capire questa cosa, da New York Times alla BBC di Londra, alle testate di tutti i paesi hanno applaudito questa bellissima notizia. Per noi è stato un sogno e un traguardo da raggiungere, ed è stato un traguardo da raggiungere faticosissimo, una salita lunga, impegnativa, che ha richiesto, io dico sempre, non il 100%, il 150% di ognuna delle persone, medici, infermieri, tecnici, chirurghi, laboratoristi, cioè, ma le signore delle pulizie, ognuno ha dovuto fare il 150%, e il risultato è stato che alla fine ce l'abbiamo fatta, perché non era così scontato. Non era così scontato. Professore, qualche giorno fa proprio il presidente Mattarella, venendo a Bergamo, l'aveva definito il cuore della Repubblica. E, queste parole raccontano proprio bene una città che ha sofferto, lottato, ma che alla fine ne sta uscendo, ne è uscita. Dando proprio, come lei sottolineava, un esempio, un modello al mondo. Guardate, il mondo guarda l'Italia qualche volta, anche perché gli italiani qualche volta sono rappresentati male, guarda l'Italia in modo strano e pensa che siamo capaci solo a fare gli spaghetti e a suonare la chitarra, ma gli italiani sono un grande popolo, questa volta lo hanno dimostrato, e quella che è un nostro pregio, cioè la capacità di essere molto bravi nei momenti così critici, noi nei momenti critici siamo veramente straordinari, è anche il nostro difetto, perché quando finiscono le parti critiche poi noi ci dimentichiamo delle nostre capacità. Ecco, in questo caso il popolo italiano ha dimostrato di essere un grande paese, unito, e in particolar modo, devo dire, forse la mia provincia, il Bergamasco, rappresenta in questo l'emblema, perché è un popolo di lavoratori, silenzioso, di grande dignità, di grande ingegno e di grandissime capacità, e questo è venuto fuori. Professore, lei ha detto che il mondo ci guarda, ma noi dobbiamo anche guardare il mondo. L'Italia, il nostro paese, ne sta lentamente uscendo, pur con la presenza di alcuni focolai, ma il fuoco è tutto intorno. Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo al Brasile. Quindi il problema non è local, è global. Noi in realtà lo sforzo che abbiamo fatto da subito è quello di fare in modo che gli altri non si trovassero inadeguati come lo siamo stati noi, perché nessuno ci ha dato le informazioni adeguate, e abbiamo detto da subito, scritto, mandato attraverso anche le TV, i giornalisti, le riviste scientifiche, abbiamo detto da subito al mondo quali erano i segreti, quanto grave fosse questa malattia. Qualcheduno ci ha ascoltato, qualcheduno non ci ha ascoltato, e poi il mondo è grande. noi ricordiamoci che con tutte le critiche che possiamo fare, la nostra sanità è una delle migliori del mondo. E fare questa cosa in Brasile non è tanto facile quanto farla qua, immagino farla in India non è tanto facile, farla in America dove la sanità è per lo più legata ai soldi e possono beneficiarne prevalentemente i ricchi, non è tanto facile. Professore, Robby Facchinetti e Stefano D'Orazio hanno dedicato una canzone a Bergamo che nel titolo ha due parole. Yes, rinascerò, rinascerai. Rinascerò, rinascerai. Professor Lorini, la ricetta per rinascere insieme, tenendo conto dell'esperienza così segnante, anche degli errori, perché errori probabilmente ne sono stati fatti. Si cresce e si impara molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie, e la capacità di riconoscere gli errori è un elemento fondamentale per tutte le professioni, ma in medicina è fondamentale per crescere. E la capacità di riconoscerli e di dirli. Sono certo di alcune cose, per esempio che c'è stato un mondo pre-Covid e ci sarà un mondo post-Covid. Io il rinascerò lo vedo in un mondo che ha imparato questa lezione e che si proietta a preparare il futuro. Il futuro va preparato in maniera diversa, non solo tecnicamente ma anche spiritualmente e moralmente. Certo. Forse rimettere in sesto la scala dei valori che noi abbiamo utilizzato negli ultimi 2000 anni forse potrebbe essere la ripartenza giusta, dare il giusto valore alle cose, alla vita, all'amicizia, alla solidarietà. Professore, grazie per essere stato con noi. Mi fermo qui perché il grazie da dire a tutte le persone che hanno portato avanti questa battaglia sono infiniti, io ne dico solo uno, grazie, ma proprio dal cuore. Buona giornata. Lo trasmetterò a tutto questo ospedale, a tutto il mondo medico, infermieristico e tecnico che ha fatto una cosa incredibile. Incredibile. Buona giornata, professor Lorini, buon sabato. Buon lavoro. Bene, restate con noi, facciamo una piccola pausa e poi pronti che si riparte. Su due ruote. Obiettivo Salute Weekend. Passeggiando in bicicletta accanto a te. Salite in sello, meglio sul sellino. Accanto a noi pedala il dottor Giorgio Guidetti, otoneurologo, presidente della Società Italiana di Vestibologia e direttore del Vertigo Center di Modena. Dottor Guidetti, buongiorno. Buongiorno. Devo pedalare veloce perché lei è un ciclista amatoriale di quelli tosti. È vero però. Sì, diciamo che... Non sia timido, dica la verità. Vabbè, diciamo che prima ero più bravo, adesso mi devo accontentare ogni tanto di usare un supporto di assistenza come le e-bike, quando proprio voglio fare le cose che prima mi venivano fatte meglio, via. Vabbè, meno male che ci sono, perché lei ha unito la sua passione per la bici, per le sue due ruote, le ha shakerate con la sua esperienza clinica e di ricerca, e insieme a Davide Cassani e Roberto Sgalla ha scritto un libro appena uscito, Sicurezza e Performance in Bicicletta, in cui parla del rapporto tra il cervello e le due ruote. Insomma, al cervello le due ruote piacciono? Sì, al cervello piacciono moltissimo le due ruote. E per due motivi. Uno, perché si diverte a controllarle ed è una situazione del tutto particolare. Basta pensare a un bambino, la prima cosa che fa quando vuole avere un po' di libertà di movimento è imparare ad andare in bicicletta. Quindi è una sfida piacevole che fin dall'infanzia noi diciamo affrontiamo. E poi man mano la trasciniamo fino a qualsiasi età, adeguando le prestazioni a quello che siamo in grado di fare. Quindi il nostro cervello ci costringe a fare delle scelte, imparare delle strategie nuove di equilibrio, è quello che ci accompagna per tutta la vita la bicicletta. E la seconda ragione, dottor Guidetti? Beh, la seconda ragione è che la bicicletta fa molto bene al cervello, cioè praticamente c'è uno scambio continuo tra il cervello e la bicicletta. La bicicletta come elemento costringe il cervello a fare certe cose e contemporaneamente il fare certe cose migliora la performance del cervello. Ormai è un dato acquisito che l'attività di questo genere, cioè il ciclismo, è in grado di stimolare per esempio gli ormoni della felicità, dopamina, endorfine, in maniera molto significativa, quindi è una fonte di benessere non solo fisico ma anche mentale, e non solo, ma anche le attività cognitive sono favorite e promosse da un'adeguata attività. Chiaro che non stiamo parlando di andare una volta al mese in bicicletta per 30 metri, sì, stiamo parlando di un uso abituale e prolungato nel tempo di questo mezzo di locomozione. Quindi il cervello è felice sulle due ruote e chi pedala insomma mantiene il cervello giovane, ma noi sappiamo che il cervello ha un amico. Noi sappiamo tutti, no, che quando il cervello si entusiasma per qualcosa ci viene il batticuore, no? Sì. Bene, e questo è esperienza comune. Bello, Esatto. E questa è una situazione sicuramente molto piacevole. Bene, cosa succede? Questo intanto significa che il cuore e il cervello si parlano. Quindi quando c'è un'emozione il cuore aumenta. Ma attenzione, è vero anche il contrario. Cioè, quando tu per esempio sotto sforzo, con uno sforzo controllato che non sia legato al terrore, insomma, cioè per esempio andare in bicicletta sereni, aumenti la tua frequenza cardiaca, il cervello impara a controllare questa situazione e a non considerarla un evento, come dire, traumatico, pericoloso, uno stato di allerta. E quindi ecco che impara a rilassarsi anche in presenza di una condizione di apparente problematica. E questo aiuta moltissimo perché favorisce naturalmente tutto quello che è una sensazione generale di benessere, perché senti il corpo che funziona bene, senti il cervello che è sereno e tranquillo, sono tutte cose che sono favorite da questo. Naturalmente anche da altri tipi di sport aerobici, ma le due ruote non si sa come mai sembrano avere una marcia in più, professore. Dottor, così, ecco, voi nel libro parlate naturalmente anche di sicurezza. Allora, prima di salutarci, tre indicazioni che arrivano anche dalle conoscenze, dei suoi studi che ha approfondito, appunto, anche che cosa succede nel cervello, che rapporti ci sono anche con i segnali visivi che ci possono aiutare o confondere. Certo, questo è giustissimo. Allora, quando noi affrontiamo una situazione nuova di tipo dinamico, come appunto muoverci, che può essere a piedi, in bicicletta, in moto, in macchina, non importa come, il cervello chiede informazioni a tre organi. Chiede informazioni all'orecchio per sapere con che velocità in che direzione andiamo, ai muscoli e alle articolazioni per sapere come è posizionato il corpo e alla vista per chiedere cosa succede intorno a noi. Ora, gli altri due segnali sono automatici perché vengono dagli organi che, come il labirinto e i muscoli e le articolazioni, sui quali non c'è modo di, come dire, di interagire più certo. Di tanto. Diverso è la vista, cioè noi se stiamo muovendoci in un certo ambiente, esploriamo continuamente l'ambiente con dei movimenti oculari. Si sa ormai dall'esperienza, e abbiamo fatto anche con i grandi piloti di motociclismo, di automobilismo, i grandi sportivi. Sappiamo che un grande sportivo deve avere, per ottenere una grande performance, il controllo dei movimenti oculari per evitare di fare molti movimenti esplorativi nell'ambiente, cioè tenere sotto controllo col minor movimento possibile. Ora, succede una cosa. Questo favorisce due cose. La sicurezza, perché se facciamo molti movimenti oculari e si crea una condizione di mancanza di precisione nel controllo dell'ambiente, e anche del cervello non sa più che dove mandarci, perché noi andiamo di solito dove stiamo guardando, quindi se facciamo molti movimenti il cervello impazzisce, non sa più da che parte deve andare. Ma soprattutto cala la performance e cala la sicurezza. Quindi è fondamentale, e succede una cosa strana, i ciclisti, anche i professionisti, non avendo, come non so, un giocatore di pallavolo, un giocatore di basket, un motociclista che corre in certe condizioni, un automobilista, non avendo questa mira davanti continuamente, sono meno bravi degli altri a controllare questi movimenti oculari. Allora come va a finire? Va a finire che in particolari condizioni, ad esempio una discesa impegnativa, se non sanno come agire, possono perdere in sicurezza e in performance. Quindi insegnando come si deve fare, per esempio fin da bambini, si ottiene sicuramente un aumento della sicurezza e un eventuale aumento di performance se c'è una gara. E infatti voi insegnate anche ai bambini, insegnerete anche ai bambini a dove guardare. Per il momento, cosa diciamo? Guarda dritto, non buttare l'occhio di qua e di là. Quando vai in bici, sali in bici, usa la testa, guarda dritto, punta lontano e vai. Esattamente questo. Le piace? Caschetto, piace bravissimo. Mi raccomando. Grande attenzione al caschetto e non fare delle cose che non si è capaci di fare solo perché si è sentito dire che sono fattibili. È pericoloso, è quello che sta succedendo adesso, maledizione, con un uso un po' sconsiderato del monopattino, per esempio, perché ci sono persone che non hanno la capacità di controllo, insomma, e vanno. Un pochino di testa bisogna sempre usarla quando ci si muove in ambiente diciamo pubblico. Grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo del libro, Sicurezza e Performance in Bicicletta, Giorgio Guidetti, Davide Cassani e Roberto Sgalla. Grazie, buona bici, grazie. buone pedalate. E noi pedaliamo per raggiungere la nostra prossima ospite, la professoressa Gwendalina Graffini, ordinario di psicologia all'Università Cattolica, direttore del centro Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, con cui abbiamo lavorato insieme nei mesi dell'emergenza Covid e nelle settimane successive, per imparare settimana a settimana a sviluppare delle competenze per attrezzarci adeguatamente per affrontare questa nuova quotidianità. Professoressa Graffigna, lei gioca a casa, buongiorno, può venire anche senza bici lei. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, grazie. Allora, i professori solitamente danno i compiti per le vacanze, oppure suggeriscono degli esercizi per rinforzarci un po', magari per colmare qualche lacuna, qualche fragilità. Immagino che anche lei, professoressa Graffigna, voglia raccomandarci qualcosa. Esattamente, beh, sarò buona, vi raccomanderò soltanto un ripasso degli esercizi che abbiamo fatto. Abbiamo preparato per voi una cartellina che colleziona tutti gli esercizi che ci hanno accompagnato nelle settimane dell'emergenza Covid e anche nella fase 2 e che ci hanno aiutato a diventare engaged, questa parola strana inglese che abbiamo commentato più volte e che qualifica il modo con cui come cittadini, come persone possiamo porci nella prevenzione, nella gestione della nostra salute fisica ma anche psicologica. E allora abbiamo raggruppato tutti gli esercizi che abbiamo fatto in queste settimane, li troverete in un libretto che potete scaricare dalla pagina del nostro sito Engagement Hub ma anche dalla pagina di Obiettivo Salute, e quindi il consiglio è ripassare, riflettere e riprovarci, perché anche per l'estate e anche poi soprattutto per ripartire a settembre io penso che qualche spunto positivo si possa trovare in questi esercizi fatti insieme. Mi piace il libro dei compiti delle vacanze, mi piace molto molto molto. Grazie alla professoressa Graffigna per essere stata con noi, per anche tutto il lavoro che ci ha aiutato a svolgere insieme agli esperti anche del suo centro. Quindi mi raccomando, trovate tutto, pagina di Obiettivo Salute, pagina di Engage Minds Hub, Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, voilà, Laura Vanossi in assistenza in redazione, eccola. Noi domani ci sentiamo alla Bufala in Tavola per mangiare insieme, pronti alle 12, siate puntuali.